giorni, per cui quando arrivano queste ricorrenze non è che ne sentiamo tutta la necessità di abbuffarci. E infatti a me è una di normale come te l'altro. Più tardi mi sono cucucato e buco. Eh beh, in effetti è così, ma che siamo poco battuti così. Al di fuori di quelli che vanno magari fuori, se fanno il weekend, se fanno le vacanze, non so dove, ma vanno a sciare, vanno nelle montagne a ripirare, a rara. Non ne ho più io di quelle velleità. Oggi sono andato a portare il cane, mi sono venuti questi due grampi a tutte e due le gambe. Oi oi, a canta giocata a Rivia ai Noghi. Non sono d'altro. Tanto che andare a sciare. Yaugridria, beh, d'altronde. La vecchiaia, peggio per te, fai domanda al comune se ti abbassa un pochino l'età, vedi un po' all'anagrafe se c'è possibilità di abbassare l'età. No, non ce n'è di quelle possibilità, e anche se me l'abbassassero rimango così, è peggio andare al buio. Se mi abbassassero l'età e diventare tornassano, che non avevo problemi, allora sì. Allora manco a camminare riesco, dimmi tu, boh, a 60 anni, cazzo, non eseguo più. E non ti lamentare che c'è anche nani tutti nani, guarda. E che almeno mi fa male un ginocchio, quando scendo le scale mi fa male un ginocchio, ma non sempre, ogni tanto. Mentre invece quando cammino normale, senza scendere le scale, non ho niente. Ma succede, dai, è l'età. No, il mio deve essere problema di circolazione proprio. Adesso in quei giorni non mi stava facendo più male. Oggi vado a portare il cane, guarda, ho fatto un giro là, forse ho sforzato troppo, mi fanno male i polpacci, guarda. Non ne potevo più. Quello magari sarà acido lattico, alle volte se non cammini spesso, quando ti muovi poi magari ti viene un po' di acido lattico e sarà quello. Ma quelli se ne vanno via subito, quei dolorini così se ne vanno via subito. Continua a camminare che ti passa prima. Speriamo di sì, cosa vuoi che ti dica? È che non riesci a camminare. Già a me è passato un dolore, ma non l'aggio più, no, che sono qui, no, che ho usato. Però quando ho portato il cane, dopo che ho fatto, sono andato, mi ho fatto il giro di Radrinità e mi sono cazzato da Corso Vittorio Emanuele. Come stavo arrivando lì, in via San Donato, ha cominciato a farmi male. Il problema è che camminiamo sempre in macchina, capito? Il problema è quello, ci dobbiamo abituare a camminare a piedi, la macchina bisogna legarla a lambatti, secca e fessa, se è mobilla, intanto per risparmiare benzina e poi anche per la salute, perché muovendosi uno si sente sicuramente meglio poi. Certo, se lo fai solo un giorno, lo leva tutta, bisogna farlo sempre, tutti i giorni. Sì, infatti, solo che mi è cucciata la batteria nuova da Gallavemma, la macchina, già ando sempre a piedi io, non è che non ando, no. Io la macchina la uso solo quando devo caricare roba. Cazzo, a un certo punto sono andato a chi l'avevo posteggiata in via Sorso, la macchina, l'avevo posteggiata. Vado ad aprire le portiere e non aprivano, ma la batteria è andata e infatti non mi ho posto in moto. Sono entrato in chi su circolo, chi va in Chivi e ci ho domandato a uno se mi basi attaccare i cavi. L'ho messa in moto, sono andato all'elettrato, ho fatto la diagnosi della batteria, che va uno strumento mano a mano, va, e ridisi, lampazzira, infatti tutti questi difetti, Dani. Ed era pericoloso che mi faceva crepare la centralina, mi ha detto. Certo, perché è a forza di insistere, sì, perché oggi con questo fatto della centralina in queste macchine diventa un po' più complicato quando la batteria non è a posto. No, ma io l'avevo cambiata qualche mese fa, l'avevo cambiata, ma l'ho comprata a città mercato e va benissimo, guarda, da 60 ampere l'avevo comprata perché vuole così per la mia macchina e l'avevo pagata 49 euro, per cui va bene, no, ti basi di elettrico, ti basi di bagasse, tu vinci 130 euro e ti pone la batteria di città mercato, ma te, perché lui va lì a comprarla. Infatti. La mia 70 ampere ed era nuova la batteria, l'avevo comprata nuova, eppure sei barrata. Vai due a pilla, raga. Anche lì ci vuole fortuna, vuole batterie. Però diciamo che di solito le costruiscono per funzionare per 2 anni, ma non è certo come quella originale. Quella originale era giambata da voi di 8 anni, io l'ho cambiata, si può immaginare. Però mi ricordo che qualche anno fa, parecchi anni fa, avevo cambiato la batteria dell'altra macchina che avevo prima, l'avevo comprata a Città Mercato, la mia barata dando 35 euro per la mia barata. Beh, questa batteria mi è durata 10 anni e più mi è durata. Da voi la giocavate nella macchina perché l'ho rotamata e l'ho messa nel motocarro ed è aggiuntata a base 2 anni. Ho rotamato il motocarro e poi l'ho presa la batteria, l'ho tolta, l'ho portata in bottega, naturalmente lasciandola così si rovina, non funziona più, è solo questione di tempo. Ma per dirti, da voi dite che le batterie città mercato non funzionano. Funzionano come? Altro che se funzionano. È il fatto da come la tratta, adesso siccome sono senza manutenzione, io non ce l'avevo più di 10 anni, cazzo, la batteria. Mi si è rotta una volta e ne ho messo una di trattore, ma te sa chi pulia sempre da 80 ampere per la macchina mia, chi si minori non andano bene, perché la mia è diesel. E praticamente mi è durata un altro po' di anni quella lì, ma... Allora mi sei fasciata, la più busta nuova, ma più di 2 anni io penso che non ha già durato, proprio da buttare, perché ha fatto la diagnosi Pierluigi, che è un amico mio, quell'elettrauto, ma è una impazzita, non andrà più, a chi mi ha fatto accendere i ruzzi e se ne farà dare di ruzzi in quanto abbassento subito. Sì, no, ma quando controllano con quello strumento non sbaglia, non è bugiardo, è uno strumento validissimo che hanno oggi gli elettrauti, anche i meccanici ce l'hanno, perciò no, quando ti dice va lui e batte, è tanto inutile che tu insisti perché poi fai più danno che altro. Ma ripeto, vai a Città Mercato a comprarla, che costa manco la metà e gusta di chi segui tre barri di bagaglio di gusti. Perché io avevo chiesto da Oema lì in via Sorso e volevano roba di 120 euro, volevano per una batteria a 60 ampere. Sono andato a Città Mercato e ho detto, beh, vanno a Città Mercato. Sì, al massimo, se non funziona, ci ho messo solo 40 euro, non è manco, 49 euro. Sì, adesso sta andando bene e poi ripeto, io l'ho comprato altre volte a Città Mercato e mi sono trovato sempre bene, per cui sono balli, sono quindi non servono, sono batterie del centro commerciale, non servono. E a chi cosa ti credi? Che dell'elettrauto non andare a Città Mercato a comprarli, fa guadagnare un bel di dinaro quando ti la giamba. No, io già l'ho già comprata la batteria, solo che il mio elettrauto ha solo quelle Fiam e sono i più cari di Viso. Saranno i burroni, mentre batterie, ma se vanno da durata di città mercato non conviene a comprarli assolutamente. Appunto, ma isso, è isso che ti devo dire, ma baita, è una questione di macca, quello sì, il fatto del prezzo. Però sono tutti bravi, vai e compra una sottomarca, ho comprato io, e va benissimo. Domandano appena che mi vedi scendere da casa, si muove il motore su la macchina, pesa un poco, un problema è d'inverno, va a me, è va d'inverno lo motore è freddo, luglio è gelato, per cui c'è un attrito superiore il motore quando gira, e pure funziona benissimo, e il maricante è messo solo 49 euro, ecco il discorso. E infatti, allora se mi si dovrà fascia, ando a Città Mercato e mi rabbiglio, al massimo ho messo 50 euro, tanto quando mi si fascerà, fra 2 anni. Appunto, ammettiamo che ti dura 2 anni, io, quando dovrò andare a comprarti là, hai peso sempre più poco di quanto hai, il peso la prima volta va a compararla, che te la base di bagaglio, 130, 140 della base di bagaglio, sono un po' esagerati, dai. Già lo so, i capi bene mi devo fare. Allora sai cosa è? Che quei capi che vendono non c'è rame dentro, sono troppo fini di sezione. L'elettrauto mio va detto, voi una roba manco 10 mm quasi, i capi per la batteria, se no non servi, è inutile che tu, a chi li vinci raggio manni, devo acciappare un capo, devo acciappare, fa farmi dire, in modo che sia sicuro che la macchina bacia. A chi la mia è tutta appunto in moto che diesel. Ma io me l'avevo fatta, mi raggio, un bel danni, cosa l'avete fatto io? E me l'avevo fatta, mi sono roba di 5 metri lunghi, ti puoi immaginare se che la macchina, una affiancata all'altro in caso di necessità, anda benissimo. Tanto è vero, con chi si capi la gente della zona, dello monte, chi mi sa che io vi raggio, vengono sempre a domandarmi da me, ricordo, che hanno dei problemi. Però, ultimamente, io sono andato a revisionare la macchina a strada 24, mi parlo, 26, sia da Fiori a Pretanieta, no? Io l'ho revisionata. E me l'ha regalata addirittura di capi fa pulire in moto la macchina così e eventualmente se viene necessità, ho preso, me la regalate sempre, io questa canna in chiva fa la revisione, mi regala sempre qualche cosa. L'altra volta mi ha regalato una pila, l'altra volta mi ha regalato un litro d'olio, un bel motore, di che tu buono mi, no, perché con me è andato a Fiori, tanto sono sempre 67 euro in castigliano con gli altri 67 euro, ma non ho visto di regala, a parte che quanto ti vado un bel check-up di base alla macchina, no, primo, e poi ti regala qualche cosetta, ho preso. E io pure vado sempre a Fiori, sempre lì vado io a fare la revisione. Ma io l'ho già fatta già tre volte, l'ho già fatta sempre in Chivi, pure la macchina del Vigliore l'ho già fatta fare in Chivi e andare, e vuol dire che vado a una bella officina, eccetera, eccetera. Per cui non so di che di solito officini così fatte da sale, con questa è una bella officina come si deve, quando è fatta la revisione lì sei tranquillo, anche fatta come te si devi. E poi allora si devi andare qua, tutti canti, la cosa da più bisogna ripetere delle camere e tutto, ma sei sicuro che chi sa la macchina, l'ha compreso? Sì, so che addirittura la trasmissione, quando sono fatto la revisione, anda direttamente a Roma, la motorizzazione, non lo so, comunque sono collegati con un centro nazionale sicuramente, per cui anda bene, quando è fatta la Edi, te la metto la busta, anni fa, quando tu andavi a vendere la macchina di seconda mano, dicevi, ma ho comprato un'altra di seconda mano, ti diceva, ma la revisione non l'hai fatta, fai di, ti domandavo, ma chi, qui lo stesso ufficini che la base di così, proprio all'acqua di rose la revisione. Per essere sicuri che la macchina è a posto, mi te lo chiedeva. Ma io ci ero rimbalzato. Infatti è proprio lì su, perché magari, sai, prima Valdiani chissà cosa combinava. Comunque, pure che su di Viale Porto Torres, la branca, non mattessimi, chi su Buru, che ha di me, non è che sia, non è un avventuriero lì su, chi su Buru è un coso, un'officina seria per la revisione. A me l'unica cosa che ci avevo e me l'ha fatta passare ugualmente, lo sai cos'era? La lampadina della targa, mi ha detto, però vai a punitire, a me mi ha detto, se no facciamo guai. Sono andato subito, io me l'ho comprata, me l'ho piazzata, perché ci avevo il fanale che era rotto, quello lì, ecco perché era rotta la, era fuso insieme alla lampadina, figurati. Perché non viene mai, prima da qua a giubiliardo, ma ci ho comprato il fanalino della luce della darga e la lampadina, e quindi è a posto. Sì, no, ma i chili da più lì, da tranquillo, se no tutti noi, no, non vengono a fare, non che ti passa, sono serie, no, ma lascia presa, no, l'avevo preso, è anche a vantaggio, oltre che a vantaggio mio, è anche a vantaggio tuo, di dirsi, sì che ha ragione, la revisione bisogna fare, ma non si può fare già con la macchina, capita, la macchina deve essere inutile, deve essere fa poi circolare tranquillo, pure una cosa, non incorrere poi incontro contravvenzione, eccetera, capito? Ma non è solo di contravvenzione che passano guai loro, perché se tu appena praticamente hai fatto la revisione, lì succede qualcosa, se la pigliano con loro che te l'hanno fatta passare, non hai capito? Eh beh certo, in effetti è così, ed è per quello appunto che dico che sono seri, loro lavorano in maniera seria, è giusto che sia così, sicché non fa scontare nessuno, ed è giusto che sia così. Sì, infatti, allora così più tranquillo due più tranquilli esi, poi ti dà sempre a che cosa, Fiorino, e tu come intendi, come te cosa, infatti me l'ha fatta passare ugualmente a me, mi ha detto però vai subito e mettiti la lampadina, perché se ti trovano senza la lampadina, come ti mai, cazzo ha appena fatto la revisione e va la lampadina che non funziona. Sicché non andava così. A me mi aveva detto, mia maita, sicuramente l'aveva scatenato e ha controllato tutto sotto, a parte la macchina mia, ma appena 34 mila chilometri, pure si va 8 anni, però fa 34 mila chilometri appena, ti puoi immaginare, sono originali. Aveva alzato le cose, la macchina è nata, ha baitato le pastiglie, i freni, le danze, ci sono le pastiglie in mezzo consumate, bisognerebbe sostituirle, ma frena bene, sì, ma sono consumati. E lo so che andate da Giovanni Giambà subito dal meccanico mio, con lui sono natale, si è una volta contro il consumato e abbiamo continuato a consumare, le pastiglie pensate via un ferro e avete fatto un danno alle cose, la buia, alle blatto, e questo è il problema. Ma come senti che fa zin zin, subito cambiare pastiglie perché sennò ti rovina i dischi. Io ho fatto sempre così, me li cambio io le pastiglie dei dischi, capito? Perché io lo so fare, me le faccio. Beh certo, quello sì. Vabbè, tu te lo sai, ma è un bullo riesco se mi pongo, però pensa che una volta ho fatto la revisione al motore del 1100, io devo venire tantissimi anni fa, va via, un 1100 di va via. Mezzo completamente cavato il motore, la della macchina, la rasura, ripresa, più di quintale, mezzo cavato, la rasura. E ha già fatto tutta la revisione al motore, addirittura ha giambato il bistone, ha già buttato il bistone a tastello, ma ha già fatto la rettifica da Ciano Melugno, allora via in Chibi sopra Serra Secca, la rettifica della distanza, tutto quanto, e l'ha già ripiazzata, eppure la macchina è andata un bel po' anni. Beh, a tutte vedi, quello io non sarei stato capace di farlo. Con questo anche, con pochissima attrezzatura mia, solo le chiavi che avevo in falegnameria e con il libretto di istruzione della Fiat, perché mi decento di la Fiat, no? Quindi un cambio di marci allo stesso, al volante, cioè, avevo il cambio. Per cui è pure una giovata, ma è un vizzino, è un giovane, non si chiede, pure metteva se ti macchinati, ci avevo di così, però la giovata, la giovata a punto e ha funzionato bombe danni. Sì, auguro, via da te che mi sei riuscito. Vabbè giù, io ti saluto, purtroppo qua è venuta gente, se no disturbo qua. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ok, ciao Natalia, se dopo gli auguri a te e famiglia, dai, alle prossime, ciao. Casomai se coincide, vediamo se è possibile sentirci stasera, ciao. E ciao Giulio, altrettanto, ciao.